microfoni della radio. Buongiorno. Scusa, ho aperto il microfono sbagliato. Buongiorno a tutti e a tutte voi. Allora, ovviamente, insomma, ci premeva fare questa diretta per parlare, insomma, di quello che è successo in questi ultimi giorni, in cui la situazione, diciamo così, in Egitto dopo l'arresto di Morsi e quindi la caduta di tutto il governo della Fratellanza Musulmana da parte dell'esercito egiziano, precipitare della situazione che ha portato, insomma, a diversi morti. Si parla di migliaia, insomma, di morti soltanto nelle ultime 24-48 ore, e che vede nella giornata di oggi un'altra giornata importante. Oggi è il giornata della preghiera in tutta l'Egitto. I fratelli musulmani hanno indetto una manifestazione di scendere in piazza proprio dopo la giornata della preghiera. Addirittura Hamas ha dato come indicazione quello di scendere in piazza nel West Bank. Quindi una giornata, insomma, che vedrà ancora una volta uno scontro di piazza molto duro, visto che l'esercito ha annunciato che ci sarà una repressione violenta a quelle che sono le proteste che continuano dei fratelli musulmani. Ti va, insomma, di raccontarci un po' cosa è avvenuto nell'ultima settimana? Ci eravamo lasciate, insomma, con un malcontento della popolazione egiziana nei confronti di ormai un anno e mezzo di governo dei fratelli un anno di governo dei fratelli musulmani. Evidentemente, insomma, in questo anno i fratelli musulmani non sono riusciti a placare la rabbia e comunque le proteste della popolazione egiziana, che chiede migliori condizioni di vita, e in questo momento, appunto, ha preso in mano l'esercito la situazione, anche sostenuto dalla popolazione egiziana, evidentemente, che, insomma, non memore della repressione che aveva subito dopo la caduta di Mubarak proprio dall'esercito, e è iniziato lo scontro a fuoco nelle piazze. Diciamo che due giorni fa c'è stato lo sgombero di questi due presidi dei fratelli musulmani, uno a Rabala Adawiya, che è vicino al palazzo presidenziale, e l'altro al Nahda, che sta vicino all'Università del Cairo, e i morti, appunto, sono un migliaio, non solo tra i sostenitori dei fratelli musulmani, ma anche, appunto, dalla popolazione, che continua incessantemente a scendere in piazza in qualsiasi situazione. Oggi, appunto, è il giorno della rabbia, indetto, appunto, dai fratelli musulmani dopo, appunto, la preghiera del venerdì, in cui ci saranno anche i funerali delle persone, appunto, che sono state massacrate dall'esercito e dalla polizia. E c'è il leader dei fratelli musulmani, Badia, che dice, appunto, che il popolo continuerà la resistenza pacifica, e questo, appunto, ci dà da pensare, perché, come noi sappiamo, i fratelli musulmani sono delle milizie armate. Proprio qualche ora fa le milizie, appunto, dei fratelli musulmani hanno bombardato la linea del treno di Alessandria d'Egitto, che porta a Matruh. E dopo, appunto, questo bombardamento, si dice che, appunto, cinque dei leader dei fratelli musulmani siano stati arrestati. Leggiamo anche che Hamas ha indetto queste manifestazioni di supporto ai fratelli musulmani egiziani nella West Bank dopo, appunto, la preghiera del venerdì. L'esercito e la polizia sono già scesi in tutte le strade dell'Egitto, non soltanto il Cairo. È bene ricordare che comunque le proteste continuano in tutto l'Egitto, soprattutto nei paesini più lontani, appunto, dal Cairo, in quanto magari la presenza dei fratelli musulmani o degli islamisti è più forte rispetto a quella del Cairo, che comunque è una grande metropoli, quindi è più difficile che riescano ad avere il controllo. E l'esercito, appunto, e la polizia proteggeranno questure e aree militari, ma non parlano di proteggere luoghi di culto, e questo, comunque, è abbastanza chiaro, visto che nei giorni scorsi sono state bruciate ben 52 chiese. chiese copte, e quindi l'esercito non si è intromesso nel momento in cui poteva appunto proteggere i luoghi di culto. Allora, diciamo che abbiamo visto nel corso delle scorse settimane la popolazione egiziana riscendere in piazza in maniera massiccia, insomma, non so, al Cairo si è parlato di milioni di persone per chiedere ad Morsi di andare via. Questo ha supportato, ha dato supporto all'esercito di arrestare Morsi. L'arresto preventivo, insomma, non so se amministrativo, non so come si chiama, durerà ancora per 30 giorni, così mi sembra che lo SCAF abbia annunciato ieri. E, tuttavia, tanta altra popolazione egiziana supporta ancora i fratelli musulmani. Sì, diciamo che appunto il 30 giugno era un anno appunto da il governo dei fratelli musulmani in Egitto, e a causa della loro, del loro fallimento politico e economico all'interno del paese, la gente ha visto come unico spiraglio quello appunto di ricorrere nuovamente al controllo dello SCAF, scordando completamente dei 6 mesi che ci furono appunto dopo la caduta di Mubarak, dei massacri appunto fatti dall'esercito. Ricordiamo appunto Maspero, che appunto ha portato a 40 morti copti, e quindi questo, insomma, il popolo egiziano, pur di disfarsi appunto dei fratelli musulmani e degli islamisti, ha deciso che l'unico appunto in grado di farlo potesse essere l'esercito, anche perché appunto dobbiamo ricordare sempre che i fratelli musulmani non sono sono armati, e quindi è anche un po' difficile riuscire a in qualche modo affermarli così, sì, in maniera pacifica. Senti, oggi, ieri ci sono state anche le dichiarazioni di Obama, che hanno detto che non hanno nessuno, insomma, che hanno eliminato hanno annullato delle esercitazioni che di solito in questo periodo, esercitazioni immagino militari, che in questo periodo di solito avvenivano con il governo egiziano, e in qualche maniera condannando, tra virgolette, anche perché quello che lo SCAF sta facendo. La cosa che mi chiedo è come insomma sia potuto nel giro di 48 ore precipitare così la situazione egiziana. Evidentemente c'è qualcuno che spinge un po' di far diventare l'Egitto come la Siria. Nella giornata di ieri c'è stata anche un'autobomba potentissima nel sud del Libano, si dice rivolta insomma contro gli Hezbollah, quindi contro gli sciiti. Una tua valutazione di tutta questa situazione abbastanza pesante che sta avvenendo un po' in tutta quell'area? Sì, sicuramente gli Stati Uniti hanno da sempre appoggiato i fratelli musulmani. Poco fa leggevo appunto che gli Stati Uniti, nonostante siano contro la violenza e contro appunto il massacro che è appena avvenuto in Egitto da 48 ore, continuano ad appoggiare i fratelli musulmani, perché dicono che l'esercito dovrebbe trovare altre modalità per appunto risolvere la questione. Sicuramente ci sono degli accordi che noi non conosciamo, non sappiamo, che non sono andati a buon fine tra i fratelli musulmani, l'esercito e gli Stati Uniti d'America, e quindi questo potrebbe essere un motivo. Un altro motivo è che naturalmente se i fratelli musulmani o gli islamisti cadono appunto nell'area egiziana, vuol dire che tutto il riassetto strategico appunto degli Stati Uniti e dell'Unione Europea andrebbe rivisto, perché comunque sappiamo storicamente che l'Egitto è sempre stato un promotore di innovazioni anche a livello politico. E appunto riguardo all'Unione Europea, appunto si è riunita per decidere che posizione prendere rispetto agli avvenimenti in Egitto. Sicuramente anche la situazione in Siria, cioè noi sappiamo che chi lotta contro Assad appunto sono islamisti e fratelli musulmani, quindi probabilmente tutta l'area del Medio Oriente non sta andando nel verso giusto o nel verso voluto appunto dagli Stati Uniti d'America o dall'Europa o dalla stessa Israele, che comunque insomma vogliono il controllo di quest'area per motivi appunto abbastanza palesi. Anche in Tunisia, insomma, in questi giorni ci sono state diverse manifestazioni, c'è stato l'anniversario, abbiamo fatto una corrispondenza neanche una settimana fa per l'anniversario dell'uccisione di un leader della sinistra comunista tunisina, e la manifestazione è stata molto partecipata, anche lì evidentemente la popolazione non è molto contenta del partito al potere, il Nahda, che ha una vicinanza insomma con i fratelli musulmani, quindi evidentemente tutta l'area in questo momento è in subbuglio su questo. Sicuramente secondo me quello che sta avvenendo in Siria è stato insomma un po' l'ago della bilancia, se all'inizio anche da parte della comunità internazionale insomma c'è stato un aiuto contro il governo di Assad, evidentemente qualcosa è cambiato anche lì, anche a livello penso insomma di armi o di interferenze dell'Arabia Saudita, insomma diciamo che districarsi in questo momento non è molto facile. E cosa, insomma, la popolazione egiziana tuttavia in questo momento, Satana e Fata dei Musulmani, sta scendendo in piazza? No, appunto l'esercito e la polizia hanno proibito tutti i manifestanti o la popolazione egiziana di scendere in piazza, appunto perché immagino che oggi ci sarà una forte repressione da parte dell'esercito e della polizia nei confronti dei fratelli musulmani e dei loro sostenitori, quindi appunto da due giorni c'è il coprifuoco. E le strade egiziane sono completamente vuote, e ci sono blindati e carri armati appunto ovunque nell'intero paese, e nonostante appunto il popolo egiziano non sia molto obbediente, come si è visto nel 2011 appunto quando c'era stato il coprifuoco, la gente continuava ad essere in piazza, a stare per le strade, a vivere una vita normale, ma appunto il terrore che i fratelli musulmani continuano a fare ha fatto sì appunto che la popolazione decidesse di rinchiudersi a casa e di rimanere al sicuro insomma. E tutto insomma anche un movimento delle compagne e compagni che in questi anni, in questi ultimi anni, 2 anni erano scesi in piazza, che in qualche maniera a fianco appunto della popolazione egiziana. Cosa sta succedendo in questo momento, visto anche i numerosi morti che ci sono stati? E immagino insomma che sia difficile in questo momento, ce l'hai appena detto, stare in piazza e cercare di districarsi, visto che insomma si parla di armi da una parte e dall'altra. Molti giornali parlano addirittura di guerra civile. Pensi che questo insomma possa accadere veramente? Beh, diciamo che in alcuni quartieri, anche per esempio ieri hanno cercato di dare fuoco al direttorato del Giza, e molte persone, molti del popolo appunto, molti attivisti e attiviste, compagni e compagne erano presenti anche per vedere la scena, per cercare di capire cosa stesse accadendo. I fratelli musulmani appunto in questo diciamo mese ormai in cui stavano in presidio hanno attaccato vari quartieri popolari egiziani, e c'è stata una risposta di difesa e di resistenza da parte appunto di questi quartieri popolari. Di fronte appunto alle armi non si può che rispondere appunto altrettanto difendendosi. È difficile in questo momento pensare che appunto i fratelli musulmani scompariranno completamente dalla scena egiziana e che appunto ritornino nelle carceri, come appunto è avvenuto sotto Mubarak, ma anche sotto Sadat o sotto Abdel Nasser. Quindi probabilmente, se la situazione non si stabilizza in qualche modo, una guerra civile è possibile. Va bene, mandiamo un attimo uno stacco musicale e poi torniamo in diretta. Dice 19 minuti primi, andiamo così a concludere questo aggiornamento dall'Egitto e